Preferirei, disse Mrs. Frederick, iniziando a piangere a scoppio ritardato, vederti morta piuttosto che ascoltare quello che mi hai detto quest'oggi, Valency. Valency osservò sua madre e le sue zie, chiedendosi se mai avessero conosciuto il vero significato dell'amore. Si sentì più dispiaciuta del solito nei loro confronti. Erano davvero da compiangere e neppure se ne rendevano conto. Barney Snaith è una canaglia per averti convinta a sposarlo, disse lo zio James con impeto. Oh, sono stata io a convincere lui. Io gli ho chiesto di sposarmi, ribatté Valency con un sorriso malizioso. Ma non hai alcun orgoglio? Domandò la zia Wellington. Molto, in realtà. Sono orgogliosa di essermi trovata un marito senza aiuto alcuno. La cugina Georgiana qui presente voleva facilitarmi le cose con Edward Beck. Edward Beck vale 20.000 dollari e ha la più bella casa da qui a Port Lawrence, disse lo zio Benjamin. Oh, sembra davvero allettante, disse Valency con scherno. Ma non è paragonabile, schioccò le dita alla sensazione delle braccia di Barney attorno a me e della sua guancia contro la mia. Oh, Doss! Proruppe la cugina Stiglitz. La cugina Sara disse: Oh, Doss! La zia Wellington aggiunse: Oh, Doss, non c'è bisogno che tu sia indecente. Beh, non sarà mica indecente gradire che il proprio marito ti abbracci, ti pare? Riterrai piuttosto indecente il contrario. Perché aspettarsi della decenza da lei? Chiese lo zio James con sarcasmo. Se ne è allontanata una volta per tutte, si è scavata la fossa. Lasciate che vi giaccia. Grazie. Disse Valency con gratitudine. Come ti saresti divertito nei panni di Torquemada, il grande inquisitore, zio. Bene, ora devo tornare a casa. Mamma, posso avere quei tre cuscini di lana che ho lavorato lo scorso inverno? Prendili, prenditi tutto, rispose Mrs. Frederick. Oh, non voglio tutto e neppure molto. Non voglio ingombrare il mio castello blu. Desidero soltanto i cuscini. Passerò a prenderli uno di questi giorni quando saremo da queste parti. Valency si alzò e si diresse verso la porta. Lì si voltò. Era più che mai dispiaciuta per loro. Non avevano un castello blu nelle solitudini purpuree del Mistawis. Il vostro problema, gente, è che non ridete abbastanza, disse. Dos cara, intervenne la cugina Georgiana in tono lagnoso, un giorno ti renderai conto che il sangue è più denso dell'acqua. Certo che lo è. Ma chi desidera che l'acqua sia densa? Controbatté Valency. Vogliamo che l'acqua sia leggera, lucente, cristallina, pura. La cugina Stiglitz gemette. Valency non chiese a nessuno di loro di andarla a trovare. Temeva sarebbero venuti per pura curiosità, invece disse: Ti dispiace se vengo a trovarti di tanto in tanto, mamma? La mia casa sarà sempre aperta per te, rispose Mrs. Frederick con lugubre dignità. Dovresti disconoscerla, disse con asprezza lo zio James quando la porta si chiuse dietro a Valency. Non posso dimenticare di essere madre, rispose Mrs. Frederick, la mia povera, sfortunata ragazza. Sono dell'idea che quel matrimonio sia illegale, disse lo zio James come per confortare i presenti. Probabilmente si è già sposato una dozzina di volte, ma con lei ho chiuso, ho fatto tutto ciò che potevo, Amelia. Credo non potrai negarlo. D'ora in avanti, lo zio James assunse un'aria assai solenne. Valency per me è morta. Mrs. Barney Snaith, disse la cugina Georgiana, come per sentire quale suono avesse. Oh, lui ha una sfilza di pseudonimi, non c'è dubbio, asserì lo zio Benjamin. Per come la vedo io, quell'uomo è per metà indiano. Sono certo che vivono in una capanna. Se lui l'ha sposata con il nome Snaith e quello non è il suo vero nome, non sarebbe nullo quel matrimonio? Chiese speranzosa la cugina Stiglitz. Lo zio James scosse la testa. No, nel matrimonio è l'uomo che conta, non il nome. Sapete, disse la cugina Gladys, che si era ripresa ed era ritornata, seppure ancor tremante, avevo chiaramente presagito tutto questo alla cena delle nozze d'argento di Herbert. Lo feci presente in quell'occasione, quando si mise a difendere Snaith. Vi ricorderete, naturalmente. Ebbi come una rivelazione e quando tornai a casa ne parlai con David. Che cosa? Domandò la zia Wellington rivolta al cielo. Che cosa è successo a Valency? Valency! Il cielo non rispose, ma lo fece lo zio James. Non avete sentito le ultime novità sullo sdoppiamento della personalità? Non credo molto in queste nuove teorie, ma potrebbe esserci qualcosa di vero in questa. Spiegherebbe la sua incomprensibile condotta. A Valen si piacciono così tanto i funghi, sospirò la cugina Georgiana. Ho paura che vivendo lassù nelle foreste del Mista Wis possa per sbaglio rimanere avvelenata con delle amanite muscarie. Ci sono cose peggiori della morte, disse lo zio James, convinto che tale affermazione fosse stata fatta per la prima volta in assoluto. Niente potrà più essere come prima, singhiozzò la cugina Stickles. Mentre percorreva frettolosamente la strada a polverosa per raggiungere il freddo Mista Wis e l'isola purpurea, Valency si era già scordata di tutti loro, proprio come si era dimenticata che avrebbe potuto morire in qualsiasi momento se avesse camminato così speditamente. 28. L'estate giunse al termine. Il clan Stirling, con l'insignificante eccezione della cugina Georgiana, aveva tacitamente deciso di seguire l'esempio dello zio James nel considerare Valency ormai morta. Quel che è certo è che Valency aveva un'inquietante e lugubre abitudine a ricorrenti resurrezioni quando lei e Barney sferragliavano attraverso Deerwood e fino a Port Lawrence dentro a quella macchina inqualificabile. Valency a capo scoperto, con delle stelle che le rilucevano negli occhi e Barney sempre a capo nudo mentre fumava la sua pipa. Ma rasato, sempre rasato ora, se qualcuno di loro lo aveva notato. Ebbero perfino l'audacia di recarsi nel negozio dello zio Benjamin a comprare generi alimentari. Per due volte lo zio Benjamin li ignorò. Valency non era forse morta? E Barney invece non era mai esistito. Ma la terza volta disse a Barney che era una canaglia e che avrebbe dovuto essere impiccato per aver portato via dalla propria casa e dai suoi amici una sfortunata ragazza psicologicamente fragile. Il sopracciglio dritto di Barney si sollevò. L'ho resa felice, disse freddamente, ed era miserabile con i suoi amici. Ecco la verità. Lo zio Benjamin lo fissò. Non gli era mai passato per la mente che le donne dovessero essere rese felici. Tu, bamboccio presuntuoso, disse. Ma perché mai essere così poco originale? Lo interrogò amabilmente Barney. Chiunque potrebbe chiamarmi bamboccio presuntuoso, perché non pensare a qualcosa di più consono agli Sterling? Inoltre, non sono un bamboccio, sono quasi un cane di mezza età, 35 anni, se le interessa saperlo. Lo zio Benjamin rammentò giusto in tempo che Valency era morta e voltò le spalle a Barney. Valency era felice. Gloriosamente e completamente felice. Sembrava vivere in una meravigliosa casa piena di vita e aprire ogni giorno una nuova misteriosa stanza. Si trattava di un mondo che non aveva niente in comune con quello che si era lasciata dietro di sé, un mondo senza tempo, giovane di una giovinezza immortale, senza passato né futuro, soltanto il presente, e si arrese completamente a suo fascino. Quell'assoluta felicità era incredibile. Potevano fare esattamente ciò che volevano. Nessuna Mrs. Grundy, un personaggio della commedia Speed Plaf dello scrittore inglese Thomas Merton, il cui nome veniva citato per indicare un individuo arrogante e bigotto. Nessuna tradizione, nessun parente o suoceri. Pace, pace perfetta con gli amati distanti, come Barney citava spudoratamente. Un giorno Valency tornò a casa e prese i suoi cuscini e la cugina Georgiana le donò una delle sue famose coperte con i candelabri dal disegno particolarmente elaborato. «Per la stanza degli ospiti, cara», le disse. «Oh, ma non ho una stanza degli ospiti», rispose Valency. La cugina Georgiana rimase inorridita. «Una casa senza una stanza per gli ospiti? Le sembrava una cosa orribile!» Ma è una deliziosa coperta, disse Valency dandole un bacio, e sono tanto felice di averla. La metterò sul mio letto. La vecchia trapunta patchwork di Barney è ormai logora. Non capisco come tu possa accontentarti di vivere nella landa desolata, sospirò la cugina Georgiana. È così fuori dal mondo. Accontentarmi, rise Valency. A cosa serviva tentare di spiegarlo alla cugina Georgiana? È, convenne lei, magnificamente e assolutamente fuori dal mondo. E tu sei davvero felice, cara? Chiese la cugina Georgiana con aria malinconica. Lo sono, veramente, disse con gravità Valency, gli occhi che le danzavano. Il matrimonio è una cosa talmente seria, sospirò la cugina Georgiana. Quando dura a lungo, convenne Valency. La cugina Georgiana non comprese affatto il significato di quelle parole, ma ne rimase scossa e restò sveglia la notte nel chiedersi cosa Valency intendesse dire. Valency amava il suo castello blu e ne era completamente soddisfatta. La grande sala aveva tre finestre, tutte con delle mirabili viste sullo squisito Mista Whis. Alla fine della stanza si trovava una finestra a sporgente che Tom McMurray, come Barney le aveva spiegato, aveva ricavato da una piccola e vecchia chiesina della landa desolata che era stata venduta. Essa si affacciava a occidente e quando il tramonto la inondava, Valency si inginocchiava e iniziava a pregare, come se si trovasse in una grande cattedrale. Lo sguardo delle nuove lune filtrava sempre da quell'apertura. I rami più bassi del pino ondeggiavano vicino alla sua sommità e nella notte, attraverso essa, poteva scorgersi il soffice e tenue argento del lago sprofondato nel proprio sonno. All'altro lato della stanza c'era un caminetto, non una dissacrante imitazione a gas, ma un caminetto reale dove si poteva ardere della vera legna. Dinanzi a esso si trovava una grande pelle di grizzly e da un lato un orribile sofà di velluto rosso di moda ai tempi di McMurray. La sua bruttezza era tuttavia celata da alcune pelli di lupo grigio argentate e i cuscini di Valency lo rendevano brioso e confortevole. In un angolo ticchettava una vecchia e pigra sveglia dalla forma allungata, il tipo perfetto di sveglia, quella che non affrettava lo scorrere delle ore ma che lo rallentava deliberatamente. Si trattava della sveglia dall'aspetto più divertente che si fosse mai visto, un grasso e corpulento marchingegno con la raffigurazione di un grosso e rotondo volto umano con le lancette che si allungavano fuori dal naso e le ore che lo circondavano come un'aureola di luce. C'era una grande teca con gufi impagliati e diverse teste di daino, sempre ereditati da Tom McMurray, alcune confortevoli e vecchie sedie che desideravano essere utilizzate. Una tozza poltroncina con un cuscino ad uso esclusivo del gatto Benjo. Se qualcun altro osava sedervisi, Benjo lo scacciava con uno sguardo dei suoi occhi color topazio bordati di nero. Benjo aveva l'adorabile abitudine di rimanere appeso sullo schienale nel tentativo di afferrarsi la coda, perdendo le staffe perché non ci riusciva, oppure mordendosela per dispetto quando centrava l'obiettivo e miagolando poi malignamente per il dolore. Barney e Valency ridevano di lui fino a star male, ma era di Good Luck che erano innamorati. Entrambi erano dell'idea che Good Luck fosse talmente adorabile da divenire quasi un'ossessione. Su un lato della parete erano allineate grezze mensole artigianali colme di libri e tra le due finestre laterali si trovava un vecchio specchio con una sbiadita cornice dorata e alcuni cupidi che saltellavano sulla lamiera che racchiudeva il vetro. Un oggetto, pensava Valency, che doveva essere come lo specchio magico nel quale Venere si era una volta ammirata e che da quel momento in poi aveva reso bellissima l'immagine di qualsiasi donna vi si fosse riflessa. Valency si vedeva quasi graziosa in quello specchio, ma poteva essere perché si era tagliata i capelli. Il caschetto a quel tempo non andava ancora di moda e una tal cosa era vista come selvaggia e inconcepibile a meno che non si fosse contratto il tifo. Quando la notizia giunse a Mrs. Frederick, lei quasi decise di cancellare il nome di Valency dalla Bibbia di famiglia. Fu Barney a tagliarle i capelli, squadrati dietro al collo e con una frangetta nera che le ricadeva sulla fronte. Quell'acconciatura conferiva per la prima volta un senso e uno scopo al piccolo volto triangolare di lei. Persino il suo naso cessò di irritarla. I suoi occhi erano lucenti e il suo carnato giallastro si era schiarito fino ad assumere una tonalità avorio dorata. La vecchia celia di famiglia era divenuta realtà. Finalmente era davvero in carne, o almeno non più pelle e ossa. Valency poteva non essere bella, ma era quel tipo di donna che appare al meglio nell'ambiente boschivo. Aveva le sembianze di un elfo, era beffarda, seducente. Il suo cuore la importunava assai poco ora. Quando sentiva il sopraggiungere di un attacco, riusciva a prevenirlo con la prescrizione del dottor Trent. L'unica brutta crisi si presentò una notte in cui era temporaneamente rimasta priva del farmaco e fu davvero tremenda. In quel momento Valency comprese che la morte stava davvero aspettando di balzarle addosso in qualsiasi istante, ma per il resto del tempo non avrebbe permesso a se stessa di pensarci. 29. Valancy non si affaticava e neppure filava. C'era davvero ben poco che potesse fare. Preparava i pasti sulla stufa a carbone e a petrolio, svolgendo con cura ed esultanza i piccoli riti domestici, e poi mangiavano fuori sulla veranda che quasi sovrastava il lago. Di fronte a loro si estendeva il Mistawis, uno scenario simile a una vecchia fiaba dei tempi andati, e Barney le sorrideva con quel sorriso storto ed enigmatico dall'altro capo del tavolo. Che vista ha scelto il vecchio Tom quando ha costruito questa catapecchia? Diceva Barney con esultanza. Il pasto preferito di Valency era la cena. La debole risata dei venti era sempre attorno a loro e i colori del Mistawis, imperiali e spirituali sotto le mutevoli nubi, erano qualcosa che non si può esprimere con le semplici parole. Persino le ombre! Esse si ammassavano tra i pini finché un vento non le scacciava per inseguirle sopra il Mistawis. Barney e Valency giacevano tutto il giorno sui litorali intessuti di felci e bocci, si avventuravano sui promontori nello splendore del tramonto e vi rimanevano finché il crepuscolo li avvolgeva completamente nella grande rete dell'oscurità. I gatti, con le faccine sagge e innocenti, sedevano sulla ringhiera della veranda e mangiavano i bocconcini che Barney lanciava loro. E com'era buono tutto quanto! Valency, in mezzo a tutto il romanticismo del Mistawis, non dimenticava mai che gli uomini hanno uno stomaco. Barney non smetteva mai di complimentarsi con lei per come cucinava. Dopotutto, ammetteva, bisogna pur riconoscere l'importanza di un pasto completo. Per lo più sono andato avanti bollendo 2 o 3 dozzine di uova per volta e mangiandone un po' quando mi sentivo affamato, assieme a una fetta di bacon di tanto in tanto e un boccale o del tè. Valency versava il tè dalla piccola e malconcia teiera in peltro di Barney, ormai incredibilmente vecchia. Non aveva neppure un servizio di piatti, soltanto alcuni pezzi spaiati e scheggiati e una cara, grande, vecchia e panciuta caraffa blu, come le uova del petirosso americano. Alla fine del pasto si sedevano e parlavano per ore, oppure si sedevano e rimanevano in silenzio, affidandosi a tutte le lingue del mondo, Barney fumando la sua pipa, Valency sognando pigramente e deliziosamente mentre osservava le distanti colline sopra il Mistawis, laddove le cime degli abeti si protendevano verso il tramonto. Il chiarore lunare iniziava a colorare di argento il lago. I pipistrelli cominciavano a librarsi minacciosamente contro il pallido oro a occidente. La piccola cascata, che si riversava sull'alta sponda non distante da lì, assumeva per qualche ghiribizzo delle divinità delle foreste le sembianze di una meravigliosa donna bianca che lanciava il suo invito tra gli speziati e profumati sempreverdi. E Linder iniziava a ridacchiare come un demonio sui litorali della terraferma. Com'era dolce starsene lì, seduti senza far niente in mezzo a quel bellissimo silenzio, con Barney all'altro capo del tavolo che fumava. Si intravedevano un'infinità di altre isole, sebbene nessuna di esse fosse abbastanza vicina da essere importuna. A occidente c'era un piccolo gruppo di isolotti molto distanti che loro avevano soprannominato Fortunate Isles. All'alba sembravano un gruppo di smeraldi, al tramonto un grappolo di ametiste. Erano troppo piccole per essere abitate, ma le luci presenti sulle isole più estese fiorivano su tutta la superficie del lago e i loro litorali venivano illuminati dai falò che si diffondevano nelle ombre della foresta, riversando grandi fiocchi rosso sangue sopra le acque. Una musica seducente giungeva a loro da alcune imbarcazioni, oppure dai padiglioni della grande casa di un milionario costruita sull'isola più estesa. Ti piacerebbe una casa come quella, Moonlight? Le chiese una volta Barney, indicandola con la mano. La chiamava Moonlight, chiaro di luna, e Valency l'adorava. No? Disse Valency, che un tempo aveva sognato di possedere un castello su una montagna che fosse 10 volte più grande del cottage di quel ricco signore, ma che adesso provava pena per gli abitanti di quei palazzi. No, no, è troppo elegante. Dovrei portarmelo dietro ovunque, sulla schiena, come una lumaca. Gli apparterrei anima e corpo. Mi piace una casa da poter amare e coccolare e gestire, proprio come quella che abbiamo qui. Non invidio a Hamilton Gossard il più bel residence estivo del Canada. È magnificente, ma non è il mio castello blu. In lontananza, proprio all'estremità del lago, ogni notte intravedevano un grosso treno continentale che attraversava una radura. Velen si amava osservarne i bagliori prodotti dalle finestre illuminate. Le piaceva fantasticare su chi si trovasse al suo interno e quali fossero le sue speranze, le sue paure. Si divertiva anche nell'immaginare se stessa e Barney che si recavano ai balli e alle cene organizzati sulle isole, sebbene non desiderasse veramente andarvi. Una volta si presentarono a un ballo in maschera che si teneva nel padiglione di uno degli hotel sopra il lago e trascorsero una meravigliosa serata, ma si dileguarono con la loro canoa prima che le maschere venissero gettate e approdarono di nuovo al loro castello blu. È stato delizioso, ma non voglio tornarci, disse Valency. Per molte ore al giorno Barney si chiudeva nella camera di Barbablù. Valency non vide mai il suo interno. Dagli odori che di tanto in tanto fuoriuscivano, concluse che stesse effettuando degli esperimenti chimici o falsificasse del denaro. Valency supponeva che dovessero esserci dei processi maleodoranti durante la produzione di denaro contraffatto, ma non se ne preoccupava. Non provava alcun desiderio di sbirciare nella stanza chiusa a chiave della vita di Barney. Il suo passato e il suo futuro non la riguardavano, soltanto questo estatico presente, nient'altro aveva importanza. Una volta lui se ne andò e rimase lontano per 2 giorni e 2 notti. Aveva chiesto a Valency se avrebbe avuto paura a restare da sola e lei aveva risposto di no. Non le disse mai dove era stato, lei non aveva paura a rimanere da sola, ma si sentì terribilmente abbandonata. La più dolce melodia che avesse mai udito fu il frastuono di Lady Jane che risuonava nella foresta quando Barney fu di ritorno, e poi il fischio di avvertimento dalla spiaggia. Corse giù per la scogliera a salutarlo, per raggomitolarsi fra le sue forti braccia, e davvero forti le sembrarono. «Ti sono mancato, Moonlight?» le sussurrò Barney. «Oh, sembrano trascorsi 100 anni da quando te ne sei andato», disse Valency. «Non ti lascerò mai più». Dovrai farlo, protestò Valency, se lo vorrai. Mi sentirei una miserabile se sapessi che vuoi andare e non lo fai per causa mia. Voglio che tu ti senta perfettamente libero. Barney rise un po' cinicamente. Non c'è vera libertà sulla terra, disse. Soltanto diversi tipi di prigionia e di legami comparativi. Pensi di essere libera adesso perché sei sfuggita a un tipo di prigionia particolarmente insopportabile, ma lo sei veramente? Tu mi ami, questa è una prigionia. Chi è che ha scritto che la prigione alla quale ci destiniamo non è una prigione? Chiese Valency con aria sognante, aggrappandosi al suo braccio mentre risalivano i gradini della scogliera. Ah, ora ci sei arrivata, disse Barney. Questa è l'unica libertà nella quale possiamo sperare. La libertà di sceglierci la nostra prigione. Ma, Moonlight. Si soffermò sulla porta del castello blu e si guardò attorno. Guardò il glorioso lago, le immense e oscure foreste, i falò, le luci scintillanti. Moonlight, sono felice di essere di nuovo a casa. Quando scendevo giù per le foreste ho visto le luci della mia casa, le mie che scintillavano sotto i vecchi pini, qualcosa che non avevo mai visto prima. Oh, piccola, mi sono sentito felice, felice. Ma a dispetto della dottrina di Barney sulla prigionia, Valency pensava che entrambi fossero splendidamente liberi. Era incredibile potersene restare seduti per metà notte a scegliere di guardare la luna, iniziare a mangiare in ritardo se lo si voleva. Lei che era stata sempre ripresa così aspramente dalla madre e che era stata rimproverata dalla cugina Stickles se arrivava un minuto dopo l'orario consentito. Oziare a tavola per tutto il tempo che si desiderava, lasciare le croste nel piatto se si voleva. Non rientrare affatto all'ora dei pasti, star seduti su uno scoglio riscaldato dal sole e agitare i piedi nudi nella calda sabbia, restarsene semplicemente a sedere, senza fare niente, in mezzo al bellissimo silenzio, insomma, fare qualsiasi sciocchezza si desiderasse e in qualsiasi momento ci andasse. Se questa non era libertà, allora che cosa lo era? 30. Non trascorrevano tutto il giorno sull'isola. Più della metà del tempo lo impiegavano avventurandosi a loro piacimento in mezzo alle incantate campagne del Muskoka. Barney conosceva i boschi come un libro stampato e insegnò a Valency le loro tradizioni e la loro forza. Riusciva sempre a trovare le tracce e la presenza degli abitanti della foresta. Valency imparò le diverse tipologie di muschi, dall'aspetto fatato, il fascino e la bellezza dei fiori di bosco, fu in grado di distinguere con un solo sguardo ogni tipo di uccello ed imitare il suo canto, sebbene non così perfettamente come Barney. Familiarizzò con ogni albero, imparò a guidare una canoa con la stessa abilità di Barney, le piaceva starsene fuori con la pioggia e non prese mai un raffreddore. Talvolta portavano con loro il pranzo e andavano a cercare frutti di bosco, fragole, mirtilli, come erano belli i mirtilli. Il verde delicato dei frutti acerbi, il rosa e lo scarlatto lucente di quelli per metà maturi, il blu opaco di quelli completamente maturi. E Valency scoprì il vero sapore delle fragole nella sua somma perfezione. C'era una certa valletta assolata sugli argini del Mistawis, lungo la quale crescevano da un lato delle betulle bianche, mentre sull'altro si susseguivano quiete e immutabili schiere di giovani abeti. Sulle radici delle betulle crescevano lunghi fili d'erba pettinati dai venti e inumiditi dalla rugiada mattutina fino al tardo pomeriggio. Qui trovavano dei frutti di bosco che avrebbero fatto onore al banchetto di Lucullo. Delle grandi e deliziose dolcezze sospese come rubini sopra lunghi steli rosati. Li sollevavano per il gambo e li mangiavano direttamente dalla pianta, integri e vergini, assaggiandone uno alla volta nella loro primitiva fragranza. Quando Valency ne portava qualcuno a casa, quell'elusiva essenza svaniva e diventavano esattamente come i comuni frutti che trovava al mercato. Sicuramente molto buoni da cucinare, ma non come lo sarebbero stati se mangiati direttamente nella valletta di betulle, fino ad avere le dita così rosa come le ciglia di Aurora. Talvolta, invece, andavano a cercare ninfee. Barney conosceva le insenature e le baie del Mistawis dove potevano trovarle. Dopodiché il castello blu appariva magnifico grazie a ogni contenitore che Valency riusciva a riempire con quelle meraviglie. Se non erano le ninfee, allora si trattava dei fiori cardinale, presi ancora freschi e vividi dalle paludi del Mistawis, dove si incendiavano come lingue di fuoco. Altre volte andavano a pescare trote in fiumiciattoli ignoti o in ruscelli segreti sui cui argini le naiadi avrebbero potuto scaldare le loro bianche e umide membra. In quelle occasioni, tutto ciò che si portavano appresso erano delle patate e del sale. Arrostivano le patate sul fuoco e Barney mostrava a Valency come cucinare le trote avvolgendole nelle foglie, ricoprendole di fango e cuocendole su un letto di carboni ardenti. Mai si erano assaggiati pasti tanto deliziosi. Valency aveva un tale appetito che non c'era da meravigliarsi se stava mettendo un po' di carne su quelle ossa. Oppure si limitavano a vagare e a esplorare le foreste che sembravano sempre in attesa di un qualche meraviglioso evento. Quantomeno questa era la sensazione di Valency. Giù, nella successiva vallata, sopra la seguente collina, quel qualcosa poteva accadere. Non sappiamo dove stiamo andando, ma non è divertente anche soltanto esplorare, diceva sempre Barney. Una o due volte la notte li sorprese troppo distanti dal loro castello blu perché potessero tornarsene a casa, ma Barney fece un fragrante letto con delle felci e dei ramoscelli di abeti e vi dormirono un sonno senza sogni sotto un soffitto di vecchi abeti rossi dai quali ricadevano innumerevoli muschi, mentre sopra di loro il chiarore lunare e il sussurro dei pini si fondevano fino a rendere indistinguibili luce e suono. Ci furono giorni piovosi, naturalmente, e il Muskoka divenne una terra verde e umida, giorni in cui, nonostante i rovesci si riversassero sul Mistawis come pallidi spettri di pioggia, Valency e Barney non rinunciavano a uscire, giorni in cui pioveva così tanto che dovevano restare in casa. Allora Barney si chiudeva nella stanza di Barbablù e Valency leggeva, oppure sognava sopra le pelli di lupo con Goodluck che faceva le fusa al suo fianco e Banjo che li guardava con sospetto dalla sua poltrona. La domenica sera prendevano la canoa e approdavano in un punto da dove raggiungevano a piedi attraverso il bosco la piccola chiesa dei liberi metodisti. Quella felicità era troppo grande per la domenica. Valency non aveva mai amato la domenica prima di allora. E sempre di domenica o nei giorni della settimana lei era con Barney. Non c'era nient'altro che importasse veramente. E che compagno era, com'era comprensivo, com'era gioioso, com'era semplicemente Barney. Questo la ripagava di tutto. Valency aveva prelevato un po' di denaro dai suoi 200 dollari depositati in banca e si era acquistata dei vestiti graziosi. Aveva un abitino di chiffon blu fumo che indossava tutte le volte che trascorrevano la sera a casa, blu fumo con dei tocchi di argento tutti intorno. Fu da quando iniziò a indossarlo che Barney prese a chiamarla Moonlight. Chiaro di luna e crepuscolo blu, ecco che cosa sembri con quell'abito. Mi piace, ti appartiene. Non sei esattamente graziosa, ma hai qualche adorabile tratto di bellezza. E i tuoi occhi e quel piccolo incavo tra le clavicole fatto per i baci. Hai i polsi e le caviglie di un'aristocratica. E quella tua testolina ha una forma splendida. E quando ti guardi indietro, oltre la spalla, sei seducente, specialmente al crepuscolo o al chiaro di luna. Una donna elfo, uno spiritello delle foreste. Tu appartieni alle foreste, Moonlight. Non dovresti mai trovarti altrove. A dispetto dei tuoi antenati, c'è qualcosa di primordiale e misterioso, indomito in te. Inoltre hai una voce così bella, dolce, profonda ed estiva, una voce così adatta a sussurrare parole d'amore. Ma certo, e tu hai baciato la Blarney Stone, la leggendaria pietra del castello di Blarney in Irlanda, nota per essere la pietra dell'eloquenza, quella che secondo la tradizione chiunque la baciasse riceveva istantaneamente i doni dell'adulazione e dell'eloquenza. Però Valancy aveva assaporato questi complimenti per settimane. Acquistò anche un completo da bagno verde pallido, un indumento che avrebbe tramortito i componenti del suo clan se glielo avessero visto indosso. Barney le insegnò a nuotare. Qualche volta si metteva il costume appena alzato e non lo toglieva fino all'ora di andare a letto, correndo a tuffarsi in qualsiasi momento le andasse, estendendosi ad asciugare sulle scogliere scaldate dal sole. Aveva dimenticato tutte le vecchie umiliazioni che le tornavano a mente durante la notte, le ingiustizie, le delusioni. Sembrava fossero accadute a un'altra persona, non a lei, Valency Snaith, che era felice da sempre. Adesso capisco cosa significhi rinascere, disse a Barney. Holmes parla di dolore, che torna ad affliggerci nel corso della vita, ma Valency pensava che la sua felicità avesse colorato di rosa e avesse inondato la sua scialba esistenza precedente. Le risultava difficile credere di essere mai stata sola, infelice e spaventata. Quando sopraggiungerà la morte, avrò vissuto, pensò Valency, avrò goduto la mia ora e avrebbe avuto il suo monticello di polvere. Un giorno Valency ammucchiò un enorme cono di sabbia in una piccola insenatura di un'isola e infilò sulla sommità una bandierina del Regno Unito. Che cosa stai festeggiando? Volle sapere Barney. Oh, sto soltanto esorcizzando un vecchio demone, gli disse Valency.